www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. Fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli muoiono 100 pulcini al giorno per ipernutrizione, K e Drago sono al centro di un esperimento mostruoso: aumentare fino a 40.000 kg di peso. K, K, sveglia, K, hanno di nuovo acceso le luci. E allora, aspetta un attimo. Non accendere e spegnere sto le luci. Calcolando, cosa Drago, calcoli, sto calcolando, Drago, secondo i miei calcoli, anzi... Secondo i miei calcoli, tenente Drago, i turni di nutrizione sono 15 minuti di luce, durante i quali ci ingozzano, e 45 minuti di buio, durante i quali ci sedano. Ci sedano? Che cosa c'entra adesso il sedano, comandante K? Lasciamo perdere, dai. Ecco che arriva il tubo, dai. No, il tubo, no. Tieni la bocca chiusa. No, io non ce l'ho fatta la bocca chiusa. Non ce l'ho fatta. Che schifo! La pappa immonda mi sta sporcando tutta la camicia. Papà, aiuto! Aiuto! Drago, dai, togliti il tubo dalla bocca! Non ce la faccio! Non ce la fai! E allora smetti di ingoiare! Vedrai che poi la pappa ti uscirà fuori dal naso. Ma che tiro? Soffoco! Ma certo che soffochi! Cosa ci puoi fare? Ecco, ecco. Luci spente. Ecco. E quindi? Drago, adesso... È il momento di scappare. Salute. Il mio fegato, K. C'ho il patè. Dai, come si chiama? Il foie gras. Ma Drago, foie gras. Tenente Drago, l'unico modo per manomettere questo macchinario è ponticellare il microinterruttore che aziona la pompa. Chiave del 6. Ho solo il martello, comandante K. Sai cosa ci puoi fare con quel martello? Sì, comandante K. Però prima ponticelli. A Moghele, Ponticelli, 1532-1712. Compositore, decomposto. Piano. No, sei d'accordo? Ecco, ecco. Adesso la macchina no, dovrebbe... No, no, K, hai ponticellato al contrario. Adesso la macchina funziona al ciclo continuo. Stai tranquillo, Drago. Tranquillo, tranquillo. Basta fare così. E poi così. Visto, Drago? Visto? Ponticellata giusta, un gioiello di intervento tecnico. E adesso... Fuori da questa gabbia! Finalmente! Liberi! Aspetta, aspetta, capo, ma dove vai? Ma sono ingrassato di 10 kg! Oh, ragazzi, avete fatto male a scappare. Non dovete dare nell'occhio. Lo sapete che io vi voglio bene, ma scappare non è una bella cosa. Io lo disapprovo profondamente, lo disapprovo dal punto di vista etico-morale, è un intoppo nel meccanismo perfettamente oliato del profitto, lo capite o no? Non potete scappare, dovete restare lì e casomai gestire il pericolo. K, ponticellando qui, ponticellando là, tu ci tiri sempre fuori dai guai. Ma certo, Drago, certo, è un metodo infallibile che ho appreso alla scuola svizzera, nelle ore di applicazioni tecniche svizzere. Applicazioni tecniche svizzere, applicazioni tecniche, era applicazioni tecniche. Nelle scuole italiane si insegnava applicazioni tecniche, non applicazioni tecniche italiane. Ma naturalmente. Ma come? Le tecniche italiane non sono minimamente paragonabili alle tecniche svizzere. No, dai, K, non mi propinerai di nuovo l'ennesima riedizione de... Le nozioni di primo de classe. La tecnica è un campo nel quale gli italiani non eccellono assolutamente. Infatti il massimo della tecnica, cioè l'orologio a cucù, è stato inventato in Svizzera. Italiani bravi solo nel disegno. Italiani disegnano, svizzeri realizzano. È sempre andata così. Dai, Kappa, non generalizzare così. Gli svizzeri, per essere pochi e chiusi tra le montagne, hanno fatto tanto. Hanno anche inventato la Svizzera. Non nel senso di nazione. Anche. Certo, anche, ma soprattutto nel senso di carne trita cotta su una piastra. Cosa dici? In pratica l'hamburger, che però vuol dire hamburghese. Hamburgo è in Germania, non è in Svizzera. Vabbè, Kappa, non dovremmo dare nell'occhio e tu ti metti a fischiettare con le mani in tasca, come dire, io non c'entro niente, io non sì, c'entro niente. Sì, sì, tanto qui non si vede mai anima viva, quindi non vedo che problema ci sia. Però ci sono i polli. Ma sì, ma i polli, poi non è detto che siano vivi, perché in realtà sono polli zombie, quindi dai. Sono mere visioni senza reale consistenza. Sì, vabbè, però se ci trovano e ci rimettono in gabbia al reparto nutrizione forzata, io mi dimetto immediatamente. Come ti dimetti? Sì, mi dimetto, sì, me ne vado, cambio lavoro. Sì, sai che lavoro. Va bene tutto, ma il tubo in gola no. Li senti? Stanno parlando di noi e della nostra nutrizione. Ma no, è chiarissimo. Dai, ma no, dicono sempre solo lineare Verstärkung, lineare Verstärkung. Lineare Verstärkung vuol dire amplificazione lineare. Lo so. Ma che senso ha? Che ora è? It's midnight. È mezzanotte. Sai cos'è? Che non riesco a ricordare da quanto tempo siamo chiusi qua dentro. Questa litania del lineare Verstärkung è da tanto che va avanti. Ma è sempre mezzanotte. Vabbè, ma non pensarci proprio adesso che siamo in pericolo, dai. Piuttosto cerchiamo il polo in sbattimento, quel traditore bastardo. Proviamo nella cappella di San Gallo. Quando si deve nascondere va sempre lì. Andiamo. Padre elettrico, io non avevo scelta. Quando sono tornato, io sono diventato un amico dell'amministratore delegato. E quindi, se aiutavo quei due polli giganti a nascondersi, avrei perso la sua fiducia, eh? L'ho appena riconquistata. Solo che adesso ho perso la loro di fiducia. Cos'è che dovevo fare? Come Sfera? Ma me lo dica lei cosa dovevo fare, no? Ti dire scusa, sono fuori servizio. Amen, Sfera. Qualche sciagurato mi ha ponticellato il microinterruttore. Sfera. Padre! Sfera! Ma è Sfera! Cosa devo fare per rimettere il tuo posto qua? Non funziona! E ora vi reciterò una poesia di Emily Dickinson. Si intitola This World Is Not Conclusion. Traduzione: questo mondo non è conclusione. Sfera. This World Is Not Conclusion. The sequel stands beyond. Invisible as music, but positive as sound. Sfera. Sound. Sfera. Come sound? Sound of sound. Eccolo lì, eccolo lì, vieni qui. Pollo in sbattimento, traditore. Ma no! Ma come ma no? Ma ci hai consegnato al reparto nutrizione forzata, altro che ma no! Ma fatemi spiegare, no? Anzi, vi dirò di più. Fatemi spiegare però. Pollo in sbattimento, non far quella faccina lì. Perché? Adesso lo sai cosa ti facciamo noi, eh? No. Come no? Ma no! Ma sì! Ma no, quello no! Ma sì, quello sì! Agna. Agna. No! Agnagna no! Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento pagherà per il suo tradimento. Ma no! E se sì, sarà doloroso. Ma no! Lo saprete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo vendicativo allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli. Un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.